Ad alta voce, Chiara Guidi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. La sera del loro arrivo, le scolarette crearono un tale scompiglio, cercando di andare al gabinetto prima di coricarsi, che all'una del mattino stavano ancora entrando le ultime. Fernanda allora comprò 72 pitali, ma riuscì soltanto a trasformare in un problema mattutino il problema notturno, perché fin dalle prime luci del giorno c'era davanti al gabinetto una lunga fila di ragazze, ognuna col suo pitale in mano, ad aspettare il turno per lavarlo. A qualcuna venne la febbre, qualche altra fu infettata dalle punture delle zanzare, ma in generale tutte dimostrarono una resistenza incrollabile di fronte alle più penose difficoltà, e perfino nell'ora di maggior calore scorazzavano nel giardino. Quando alla fine se ne andarono, le aiuole erano distrutte, i mobili a pezzi e le pareti coperte di disegni e di iscrizioni, ma Fernanda perdonò loro tutti i danni nel sollievo della partenza, restituì i letti e gli sgabelli prestati e ripose i 72 pitali nella stanza di Melchiades. Da allora quel locale sbarrato, intorno al quale si era svolta in altri tempi la vita spirituale della casa, fu chiamato la stanza dei pitali. Per il colonnello Aureliano Buendía quello era il nome più adatto, perché mentre il resto della famiglia continuava a stupirsi che la camera di Melchiades fosse immune dalla polvere e dalla distruzione, lui la vedeva trasformata in un mondezzaio. In ogni modo, non sembrava importargli chi avesse ragione. E se venne a conoscenza del destino della stanza, fu perché Fernanda passò avanti e indietro e disturbò il suo lavoro per un intero pomeriggio per riporre i pitali. In quei giorni ricomparve in casa José Arcadio II. Passava sotto il porticato senza salutare nessuno e si chiudeva nel laboratorio a parlare col colonnello. Benché non potesse vederlo, Ursula analizzava il tonfo dei suoi stivali da caposquadra e si meravigliava per la distanza incolmabile che lo separava dalla famiglia, anche dal fratello gemello con cui aveva giocato nell'infanzia ingegnosi giochi di confusione e col quale ormai non aveva più alcun tratto in comune. Era lineare, solenne e aveva un fare pensieroso e una tristezza da saraceno e un bagliore lugubre sul volto color autunno. Era quello che più somigliava a sua madre, Santa Sofia della Pietà. Ursula si rimproverava la tendenza a dimenticarsi di lui quando parlava della famiglia, ma non appena lo sentì di nuovo in casa e si accorse che il colonnello lo riceveva nel laboratorio durante le ore di lavoro, si rimise a esaminare i suoi vecchi ricordi e confermò la convinzione che in qualche momento dell'infanzia si era cambiato col suo fratello gemello, perché era lui e non l'altro che doveva chiamarsi Aureliano. Nessuno conosceva i particolari della sua vita. Un tempo si era saputo che non aveva una residenza fissa, che allevava galli in casa di Pilar Ternera e che certe volte rimaneva a dormire lì, ma che quasi sempre passava la notte nelle stanze delle matrone francesi. Andava all'avventura, senza affetti, senza ambizioni, come una stella errante nel sistema planetario di Ursula. in realtà. Cos'è Arcadio II non era membro della famiglia, né lo sarebbe mai stato di altro. Fin dal mattino lontano in cui il colonnello Gerineldo Marchi lo aveva portato in caserma, non perché vedesse una fucilazione, ma perché non dimenticasse per il resto della sua vita il sorriso triste e un po' beffardo del fucilato. Quello non era il suo ricordo più antico, ma l'unico della sua fanciullezza. L'altro, quello di un vecchio con un panciotto anacronistico e un cappello ad ali di corvo che raccontava meraviglie davanti a una finestra abbagliante, non riusciva a situarlo in nessuna epoca. Era un ricordo incerto, del tutto sprovvisto di insegnamenti o di nostalgia, al contrario del ricordo del fucilato, che in realtà aveva tracciato la direzione della sua vita e che tornava nella sua memoria sempre più nitido, a mano che invecchiava, come se il trascorrere del tempo lo andasse approssimando. Ursula cercò di approfittare di cos'è Arcadio II per far sì che il colonnello Aureliano Buendia abbandonasse la clausura. Convincilo ad andare al cinema, gli diceva. Anche se non gli piacciono le pellicole, avrà perlomeno un'opportunità di respirare aria pura. Ma non tardò a rendersi conto che cos'è Arcadio II era insensibile alle sue suppliche, come sarebbe potuto esserlo il colonnello, e che erano corazzati con la stessa impermeabilità agli affetti. Anche se non seppe mai, e nessuno lo seppe, di che cosa parlavano durante i lunghi colloqui nel laboratorio, capì che erano loro gli unici membri della famiglia che sembravano vincolati da affinità. La verità era che nemmeno cos'è Arcadio II avrebbe potuto togliere il colonnello dalla sua clausura. L'invasione della scolaresca aveva fatto traboccare la sua pazienza, col pretesto che la stanza nuziale era alla mercé delle tarme nonostante la distruzione delle appetitose bambole di Remedios. Appese un'amaca nel laboratorio e da allora ne usciva soltanto per andare nel patio a soddisfare i suoi bisogni. Ursula non riusciva a imbastire con lui una conversazione banale. Sapeva bene che lui non degnava il mangiare che lei gli posava sul banco, ma lo metteva da parte finché non aveva finito il pesciolino. E non gli importava se nella minestra il grasso veniva a galla e se la carne si freddava. Si era irrigidito sempre di più da quando il colonnello Gerineldo Marquez aveva rifiutato di secondarlo in una guerra senile. Si era chiuso ermeticamente in se stesso e la famiglia finì per pensare a lui come se fosse morto. Non si rivide in lui reazione umana fino a quell'11 di ottobre in cui uscì sulla porta di strada a veder passare un circo. Quella era stata per il colonnello Aureliano Buendia una giornata uguale a tutte quelle dei suoi ultimi anni. Alle 5 del mattino lo aveva svegliato lo schiamazzo dei rospi e dei grilli di là del muro. La pioggerella persisteva dal sabato e lui non avrebbe avuto bisogno di sentire il suo minuzioso picchiettio sulle foglie del giardino, perché in ogni modo lo avrebbe sentito nel freddo delle ossa. Era, come sempre, avvolto nella coperta di lana e con le lunghe mutande di cotone grezzo che continuava a portare per comodità, anche se a causa del loro polveroso anacronismo lui stesso le chiamava mutande da conservatore. Si infilò i pantaloni stretti, ma non chiuse le fibbie né mise al colletto della camicia il bottone d'oro che usava sempre, perché aveva intenzione di fare un bagno. Poi si mise la coperta sulla testa come un cappuccio. Si pettinò con le dita i baffi spioventi e andò a urinare nel patio. Mancava così tanto al sorgere del sole che José Arcadio Buendía sonnecchiava ancora lì sotto la tettoia di palme macerate dalla pioggerella. Lui non lo vide, come non lo aveva mai visto, né sentì la frase incomprensibile che gli rivolse lo spettro di suo padre quando si svegliò di soprassalto per il getto di urina calda che gli spruzzava le scarpe. Rimandò il bagno a più tardi, non a causa del freddo e dell'umidità, ma per la nebbia opprimente di ottobre. Tornando nel laboratorio, sentì l'odore di lucignolo del focolare che stava accendendo Santa Sofia della Pietà e aspettò in cucina che bollisse il caffè per prendersi la sua scodella senza zucchero. Santa Sofia della Pietà gli chiese, come tutte le mattine, che giorno della settimana era. E lui rispose che era martedì 11 ottobre. Osservando la impavida donna illuminata dal riverbero del fuoco, che né in quel momento né in nessun altro istante della sua vita sembrava esistere completamente, si ricordò d'un tratto che in un 11 di ottobre, in piena guerra, lo aveva risvegliato la certezza brutale che la donna con la quale aveva dormito era morta. Lo era, in realtà. E non aveva dimenticato la data, perché anche lei gli aveva chiesto un'ora prima che giorno era. Nonostante la rievocazione, nemmeno stavolta si accorse fino a che punto lo avevano abbandonato i presagi. E mentre il caffè bolliva, continuò a pensare, per pura curiosità, ma senza il più insignificante rischio di nostalgia, alla donna il cui nome non aveva mai saputo e il cui volto non aveva mai visto in vita, perché era arrivata nella sua amaca inciampando nel buio. Tuttavia, nel vuoto di tante donne che erano entrate nella sua vita allo stesso modo, non si ricordò che era stata lei, nel delirio del primo incontro, a trovarsi sul punto di naufragare nelle sue stesse lacrime, e appena un'ora prima di morire aveva giurato di amarlo fino alla morte. Non tornò a pensare né a lei né a nessun'altra dopo essersi ritrovato nel laboratorio con la tazza fumante e accese la luce per contare i pesciolini d'oro che conservava in un recipiente di latta. Ce n'erano 17. Da quando aveva deciso di non venderli, aveva continuato a fabbricare 2 pesciolini al giorno e quando ne aveva terminati 25 tornava a fonderli nel crogiuolo per ricominciare a farli. Lavorò per tutta la mattina, assorto, senza pensare a nulla, senza accorgersi che alle 10 la pioggia si era infittita e che qualcuno era passato davanti al laboratorio, gridando che chiudessero le porte se non volevano che la casa si inondasse, e senza accorgersi nemmeno di se stesso, finché Ursula entrò col pranzo e spense la luce. «Che pioggia!» disse Ursula. «Ottobre!» disse lui. Quando lo disse, non alzò lo sguardo dal primo pesciolino del giorno, perché stava incastonando i rubini degli occhi. Solo quando finì il pesce e lo mise con gli altri nel recipiente, cominciò a sorbire la zuppa. Poi mangiò, molto lentamente, il pezzo di carne arrosto con cipolla, il riso bianco e le fette di banana cotta, tutto insieme, nello stesso piatto. Il suo appetito non si alterava né nelle migliori né nelle più dure circostanze. Alla fine del pasto provò l'apprensione della oziosità. Per una specie di superstizione scientifica, non lavorava mai. Ne leggeva, ne faceva il bagno, ne faceva l'amore, prima che fossero trascorse 2 ore di digestione. Ed era una convinzione così radicata che parecchie volte rimandò operazioni di guerra per non sottoporre la truppa ai rischi di una congestione. Di modo che si coricò nell'amaca. Si tolse il cerume dalle orecchie con un temperino e dopo pochi minuti si addormentò. Sognò di entrare in una casa vuota, con le pareti bianche, e di sentirsi turbato d'essere la prima persona umana che vi metteva piede. Nel sogno si ricordò di aver sognato la stessa cosa la notte prima e molte altre notti degli ultimi anni. E seppe che l'immagine gli si era cancellata dalla memoria quando si era svegliato, perché quel sogno ricorrente aveva la virtù di non poter essere ricordato se non dentro il sogno stesso. Un momento dopo, in effetti, quando il barbiere bussò alla porta del laboratorio, il colonnello Aureliano Buendia si svegliò con l'impressione di essersi involontariamente addormentato per qualche secondo e di non aver avuto il tempo di sognare nulla. «Oggi no», disse al barbiere. «Ci vediamo venerdì». Aveva una barba di 3 giorni, spruzzata di lanugine bianca, ma non riteneva necessario radersi ora, visto che venerdì si sarebbe tagliati i capelli e poteva far tutto in una sola volta. Il sudore appiccicoso della siesta non prevista gli fece rivivere sotto le ascelle le cicatrici dei favi. Non pioveva più, ma il sole non era ancora rispuntato. Il colonnello Aureliano Buendia emise un rutto sonoro che gli riportò nel palato l'acidità della zuppa e che fu come un ordine dell'organismo perché si buttasse la coperta sulle spalle e se ne andasse nel gabinetto. Lì rimase più del tempo necessario, accovacciato sulla densa fermentazione che saliva dal cassone di legno, finché l'abitudine lo avvisò che era ora di riprendere il lavoro. Durante il tempo che durò l'attesa, tornò a ricordarsi che era martedì e che José Arcadio II non era venuto in laboratorio perché era giorno di paga nei campi della compagnia bananiera. Quel ricordo, come tutti i ricordi degli ultimi anni, lo indusse, senza una particolare ragione, a pensare alla guerra. Ricordò che il colonnello Gerineldo Marquez gli aveva promesso una volta un cavallo con una stella bianca sulla fronte. E poi non se n'era più parlato e deviò verso dispersi episodi, ma li evocò senza definirli, perché a forza di non poter pensare ad altro aveva imparato a pensare a freddo per non consentire ai ricordi ineluttabili di ledergli qualche sentimento. Tornato nel laboratorio e accorgendosi che l'aria cominciava a seccare, decise che era il momento adatto per fare il bagno. Ma Amaranta lo aveva preceduto e così cominciò il secondo pesciolino della giornata. stava arricciando la coda quando il sole brillò con tanta forza che il chiarore diede un gemito come di barca vecchia. L'aria lavata da 3 giorni di pioggia si riempì di formiche volanti. Allora si accorse di aver voglia di orinare e di aver trattenuto il bisogno perché prima voleva finire il pesciolino. Si dirigeva verso il patio alle 4:10, quando udì i fiati lontani, il rimbombo del tamburo e la gazzarra dei bambini. E per la prima volta dalla sua gioventù mise coscientemente il piede in una trappola della nostalgia e rivisse il prodigioso pomeriggio di Zingari in cui suo padre lo aveva portato a conoscere il ghiaccio. Santa Sofia della Pietà lasciò quello che stava facendo in cucina e corse verso la porta. «È il circo!» gridò. Invece di andare verso il castagno, il colonnello Aureliano Buendia si affacciò anche lui alla porta di strada e si mescolò ai curiosi che assistevano alla sfilata. Vide una donna vestita d'oro in groppa a un elefante. Vide un dromedario triste. Vide un orso vestito da olandesina che segnava il ritmo della musica con un cucchiaione e una casseruola. Vide i pagliacci che facevano sberleffi in coda al corteo e vide di nuovo la faccia della sua solitudine miserabile quando tutto finì di passare e non rimase altro che il luminoso spazio nella strada e l'aria piena di formiche volanti e alcuni curiosi affacciati sul precipizio dell'incertezza. Allora andò verso il castagno, pensando al circo, e mentre orinava, cercò di continuare a pensare al circo, ma ormai non trovò il ricordo. Affondò la testa nelle spalle, come un pulcino, e rimase immobile con la fronte appoggiata al tronco del castagno. La famiglia non se ne accorse fino al giorno dopo, alle 11 del mattino, quando Santa Sofia della Piedad andò a buttar via la spazzatura in fondo al patio e si meravigliò che gli avvoltoi stessero calando.